Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. She's laying on the floor. I tried to pick her up. I tried to. Okay, what I want you to do, I want you to go over and see if she's breathing. I can't tell. Please send somebody here, but who knows what they're doing. I understand that, sir. I have somebody on the way. But if she's not breathing, you need to help her breathe. You need to find out whether or not she's breathing. Go over to her. Questa è una telefonata drammatica, la telefonata di un uomo disperato, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti, e che chiede aiuto al 911. Siamo in America, perché davanti c'è la sua compagna che è esanime, forse probabilmente per colpa di un cocktail letale di farmaci, droghe, alcol, e gli dicono l'aiuti e lui non è in grado di farlo perché è sconvolto. Tutto questo avviene il 1° maggio del 2003. La donna che sta morendo è una donna fragile, controversa, che ha sempre vissuto in quel pericoloso e sottile confine che separa la finzione e la realtà, un percorso che ha finito per trascinarla nell'abisso. È una vita borderline che ha trovato questo il suo palcoscenico ideale nel mondo dorato del wrestling americano. La donna che è sul pavimento e in preda a una drammatica e ahimè irreversibile crisi respiratoria si chiama Elizabeth Ann Hulett, è diventata famosa con il nome d'arte di Miss Elizabeth, la nostra protagonista, la First Lady del wrestling. E la parola wrestling, insomma, sicuramente vi farà venire in mente un energumeno truce che salta da un angolo all'altro del ring, che atterra sul suo avversario altrettanto imponente, però senza farsi mai veramente male. È tutto permeato di finzione, un po' come il calcio italiano per molti anni del suo percorso. E questo perché il wrestling è una forma di intrattenimento particolare, popolarissima negli Stati Uniti, ma ormai anche in altre parti del mondo, trae le sue origini dalla lotta greco-romana, è la spettacolarizzazione del combattimento più terribile, l'esibizione atletica e la teatralità, è fatto di leggi, di azioni, di eroi, di personaggi che hanno nomi stabiliti, di antieroi. Anche le mosse della lotta hanno un nome specifico, niente lasciato al caso, ci sono amicizie, alleanze, c'è chi vince, c'è chi perde, è una immensa sceneggiata, con la differenza che o malamente il buono, il protagonista, la bella sono parte di un modo di vivere molto più americano ovviamente che napoletano, tutti strumenti ideati per sorprendere il pubblico, insomma un mondo apparentemente e volutamente brutale, sporco e cattivo e cinico, e invece insomma una americanissima recita. Però c'è anche un lato sorprendentemente raffinato, elegante, pacato, sexy, insomma femminile, perché poi alla fine, oltre alla lotta, tira più un eccetera eccetera, cioè le donne servono sempre in questi spettacoli. E se il wrestling ha scoperto questa parte, diciamo, gentile, se è riuscita a inserire in questo contesto l'elemento femminile, il merito è della nostra protagonista di oggi, Miss Elizabeth, la First Lady del wrestling. Elizabeth Ann Hulett, la prima donna che è diventata una diva del wrestling mondiale, ha avuto una vita molto travagliata, è stata legata sentimentalmente a due lottatori con i quali le serate spesso finivano in maniera, diciamo, più che spericolata: sbronze, coca, liti furibonde, telefonate alla polizia. Però nonostante questo, lei, the lovely Miss Elizabeth, è riuscita a mantenere la sua femminilità, è riuscita a rivoluzionare il ruolo, la visione della donna in un mondo ovviamente estremamente maschilista come quello del wrestling. Ma conosciamo meglio questa donna. Elizabeth Ann nasce nel 60 a Frankfort nel Kentucky, nella provincia profonda americana. È una ragazza seria, diligente, tranquilla e studiosa, fa passeggiate a cavallo immersa nella natura, frequenta l'università del Kentucky, ottiene una laurea in comunicazione e questa laurea la porta a lavorare come videogiornalista nella televisione del padre. Insomma, sembra lontana anni luce da quell'ambiente che la vedrà grande protagonista nel futuro. E però forse proprio durante uno di quei servizi televisivi la sua vita cambia improvvisamente, i colpi d'ala del destino, perché il padre spesso trasmette eventi legati al wrestling. Forse proprio in occasione di uno di questi eventi lei incontra una persona speciale, l'uomo che conquisterà il suo cuore, quello che la prenderà per mano anche brutalmente e la condurrà sotto la luce dei riflettori. Quell'uomo si chiama Randall Poffo, ma è meglio conosciuto con il nome d'arte di Macho Man Randy Savage. Randy e Elizabeth si innamorano e si sposano nel 1984. Ecco il classico modo di presentare uno dei contendenti. Siamo nell'85 e nella finzione del wrestling, dove ognuno deve avere un ruolo preciso, il grande Macho Man è un personaggio sopra le righe, è uno sbruffone, una montagna di muscoli coperta da occhialoni, frange, cappelloni fatti apposta dal sarto, e lui deve rilanciare la sua immagine, decide di puntare su un nuovo manager, indice un concorso sempre all'interno della finzione dello spettacolo, cioè un concorso pubblico, una recita. Ci sono tanti partecipanti perché molti vorrebbero stare accanto a un'icona del wrestling come Randy. Alla fine, durante un evento nel mondo del wrestling, Macho Man annuncia in diretta la sua scelta finale. Everybody get ready, a big, big moment, and here she comes. Oh my! Stupore, ma chi è? Una diva del cinema. Insomma, il cronista commenta così l'ingresso in scena di Elizabeth. È lei il nuovo manager di Macho Man, non uno dei tanti candidati presenti, tutti un po' anonimi, ma una donna simile a una star, con un abito elegante, i tacchi alti, e lei stupisce sia il pubblico che il telecronista, che si finge o comunque si manifesta incredulo, percorre sinuosamente i pochi metri che la separano dal ring e supera le corde, immaginiamo come, insomma, quindi chinandosi, creando insomma quel modo di muoversi che tanto piace a noi uomini, urla del pubblico, insomma Elizabeth Ann si trasforma in Miss Elizabeth, non è più una giornalista che racconta il mondo del wrestling, è diventata uno dei protagonisti di quel mondo. Il falco e il gabbiano. Siamo a metà degli anni 80, nel wrestling è nata una nuova stella e non è un atleta, è un manager, anzi una manager, è una figura che assiste Macho Man dentro e fuori dal ring, lo fa ovviamente a modo suo. Il wrestling è uno sport, uno spettacolo più che uno sport, molto particolare, che ha la sua drammaturgia come il cinema, come il teatro, e negli incontri non vanno in scena solo combattimenti scenografici, ma storie vere e proprie fatte di personaggi, di duelli, di vendette, di faide tribali che nel gergo del wrestling vengono chiamate foid, e non si consumano solo tra le corde del ring ma anche nel backstage. E gli americani, insomma, che sono direi il popolo più ingenuo del pianeta, ovviamente abboccano e non vengono risparmiati i colpi bassi. Ogni atleta che interpreta un personaggio ha una sua gimmick, cioè caratteristiche che lo rendono riconoscibile. Per esempio Hulk Hogan, figura celebre di questo mondo, è un face, cioè un personaggio che cerca l'approvazione del pubblico, che incarna i valori positivi come la lealtà, la correttezza, la giustizia, ma ce ne sono tanti. C'è il bel giovanottone John Cena, o c'era The Undertaker, quello che ti porta sotto nel dell'abisso con la faccia da spiritato, insomma ce n'è per tutti i gusti. Hulk Hogan per esempio abbiamo detto è il buono, Macho Man invece lo heel, è il suo opposto, il cattivo, esuberante, scorretto, sleale. Miss Elizabeth mitiga la sua figura, la rende più accattivante, insomma diciamo che sono la Bella e la Bestia del wrestling. Ascoltate come parla di Elizabeth il celebre Dan Peterson, allenatore, telecronista sportivo americano, ormai italiano, famoso per la sua voce e il suo accento inconfondibile. Elisabetta è veramente una bella ragazza, eh? Elegante, come si può dire. La gente che l'ha vista in persona dice che in persona è stupenda Elisabetta. Randy Savage un po' meno, un po' montato Randy Savage. Io numero uno, I am Macho Man, io sono Macho Man. Eh sì, il rapporto tra i due è particolare. Elizabeth è magnetica, ruba l'occhio maschile soprattutto. Randy lo sa, è uno dei motivi per cui l'ha scelta, non solo come manager ma anche come compagna nella vita reale. E il fascino di lei contribuisce a crescere la fama di lui, permette alla coppia di portare avanti questa recita che appassiona il pubblico, perché basta che lei getti un'occhiata a un altro uomo, perché Randy diventi geloso, aggressivo e non si controlli più. Insomma, il personaggio Macho Man, lo dice il nome, non deve far nulla per nascondere questa sua gelosia. Durante l'intervista lui maltratta Elizabeth, la comanda, la deride, avviene lo stesso sul ring. Durante un famoso match contro George Steele, detto di Animal, il tipico energumeno, brutale, pelato, grasso, villoso, The Animal si struscia contro Elizabeth e lui cosa fa? Se la prende con lei, la minaccia, la strattona malamente. Insomma, certo, nel wrestling diciamo i buoni propositi verso le donne non sono al centro dell'agenda, no? Però gli appassionati si ricordano di quella serata anche per un altro gesto molto significativo, perché Animal Steel, dopo aver sconfitto Macho Man, si avvicina a Elizabeth, la guarda con occhi da innamorato e la prende in braccio con dolcezza, se la porta via. Ai ai ai. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. Sweet and lovely, heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loved me. Who would want a sweeter surprise? In questo incontro ci sono tutti gli elementi tipici dello spettacolo del wrestling: rudezza, violenza, invidia, gelosia, desiderio di vendetta, ma c'è molto altro. È qualcosa che non si era mai visto prima, la dolcezza e la grazia, cioè il bruto che si scopre tenero, e quanto piacciono ste cose agli americani, la bestia che trova la sua bella, e qui nasce Miss Elizabeth, il mito che ha cambiato il wrestling. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the first lady, Miss Elizabeth. E negli anni Ottanta le cose vanno sempre più veloci, tutto cambia, è il momento dell'affarismo di Wall Street, dello yuppismo, della ricerca, della carriera brillante e vincente. Ecco, la figura della donna vincente entra nell'immaginario collettivo, e grazie a Miss Elizabeth accade la stessa cosa nel wrestling. La First Lady, ormai tutti la conoscono così, non diventa uomo per ottenere autorevolezza, anzi esaspera la propria femminilità proprio per riaffermarsi. È sofisticata, è di classe, non si abbassa mai all'altezza del nemico, il suo modo di fare è raffinato, e questa è la chiave del suo successo sul ring e soprattutto fuori, un successo travolgente, inarrestabile. Nessuno resiste allo charme di Miss Elizabeth. E il suo sguardo, che è apparentemente indifferente, nasconde però questa insicurezza della donna reale, quella che c'è dentro di lei veramente, che ha bisogno comunque di appoggiarsi a un uomo che la protegga. Macho Man è perfetto per il ruolo, sia sul ring che fuori. Sul ring lei ha un atteggiamento protettivo nei confronti del suo uomo, per difenderlo è disposta a qualunque cosa. Durante un match con Honky Tonk Man, Randy al tappeto sta soccombendo sotto i colpi dell'avversario. Lei, Miss Elizabeth, è disperata, non sa cosa fare e arriva al punto di chiamare l'acerrimo nemico di Randy, il terribile, il famoso Hulk Hogan, perché corra in suo aiuto. E questo è un grande colpo di scena, è un'evoluzione nelle carriere dei due wrestler, perché i manager, insomma, hanno deciso di far combattere assieme Hulk Hogan e Macho Man, creando il famoso tag team noto con il nome di Mega Powers. Vi spiego, tag team si intende coppia di wrestler militanti in una stessa federazione che combattono in due contro due, se quando uno batte tocca l'altro, allora entra l'altro, ancora più spettacolare, insomma, almeno per gli americani. E questo è un periodo molto felice per lei, per Miss Elizabeth, è un periodo che lei vive tra grandi performa sul ring e festini dove non mancano di certo droga e alcol. E intanto Hogan è arrivato nella squadra e questo rappresenta per i manager la possibilità di creare una parentesi pericolosa, burrascosa, insomma, per movimentare un po' le vicende della squadra, perché Miss Elizabeth e Hulk Hogan cominciano a stringere un bel legame e un affetto che ovviamente Macho Man non può accettare, e che porta alla fine dell'idilio. Viene organizzato un momento clou dove Miss Elizabeth è costretta a trovarsi tra due fuochi, e non solo in senso figurato. Ma qual è nella drammaturgia della vicenda la decisione così difficile che Miss Elizabeth non avrebbe mai pensato di dover prendere? Allora, siamo nel 1989, 2 aprile, quinta edizione di WrestleMania, o WrestleMania, insomma. Macho Man e Hogan hanno deciso di rompere il loro fortunato sodalizio, e quindi il loro incontro sarà proprio il main event della serata, cioè il clou sarà la coppia tra i due, dei due wrestler che si sfida. E nel momento di grande attenzione prima dell'inizio del combattimento, a Miss Elizabeth viene chiesto da quale parte andrà a schierarsi, in quale angolo si metterà. È una commedia perfetta è quella che hanno imbastito questi tre. Miss Elizabeth recita bene, è turbata, è sofferente, non si sente di scegliere tra due persone alle quali è molto affezionata, così non sceglie, o meglio, sceglie di rimanere neutrale. Starai all'angolo di Hulk Hogan al WrestleMania 5 o all'angolo di Macho Man? Questa è la decisione più difficile che io abbia mai dovuto prendere nella mia vita, perché a me importano entrambi. Una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere, che ho sperato di non dover mai prendere. E pensate, stiamo parlando degli americani, cioè gli esportatori di democrazia, che si commuovono, si eccitano e si emozionano di fronte a una scena del genere. Vabbè, lasciamo stare. E torniamo a questo drammone. Lei non sceglie, lascia tutti di stucco, scatena l'ira di Macho Man, che tenta di scagliarsi contro Hogan. Non ci riesce perché Miss Elizabeth vuole calmare gli animi, si frappone lei così minuta e delicata tra queste due montagne di muscoli pronte a farsi a pezzi. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia per noi surreale, ma perfettamente americana, la storia di Miss Elizabeth al secolo, Elizabeth Ann Hewlett, la first lady del wrestling, la partner sul ring di Randy Savage, cioè di Macho Man, e moglie nella vita reale, donna bella, elegante, femminile, una mosca bianca nel mondo rude, maschilista del wrestling. E l'abbiamo lasciata sul palco di un incontro storico, quello tra i due uomini della sua vita, diciamo, Macho Man e Hulk Hogan, il pretendente al trono, un incontro che si tiene durante la quinta edizione di WrestleMania nel 1986. Miss Elizabeth è di fronte a una decisione difficile, deve scegliere tra un grande amico, come minimo grande amico, e il suo grande amore. Lei sceglie di restare neutrale, non si schiera e tutti pensano che l'episodio possa compromettere il rapporto già difficile tra lei e il suo uomo e Macho Man. Invece il loro manager decide di fare culminare la storia dei due personaggi che vengono ancora oggi ricordati come il Romeo e la Giulietta del wrestling, e decide di far culminare questa storia con un matrimonio spettacolare durante l'edizione di SummerSlam, cerimonia immaginate quanto raffinata, una cerimonia barocca, lustrini, e viene ribattezzata come The Match Made in Heaven, l'incontro fatto in paradiso. E nella realtà loro due si erano già sposati nell'84 e era strano che i due personaggi non fossero marito e moglie, ma la realtà entra dentro la finzione durante la sfarzosa cerimonia. Tra i regali di nozze la First Lady trova un cobra, dono di Jack the Snake, un altro famosissimo wrestler, che le fa un regalo insomma quantomeno discutibile, e poi la aggredisce. The happy conclusion to this perfect occasion was suddenly marred by this. Questa assurda aggressione che è subita da Miss Elizabeth durante il suo matrimonio ha l'aria di essere uno spartiacque molto pericoloso per la sua carriera, e questo lo dimostra anche un altro famoso episodio. È il 3 dicembre del 91, San Antonio in Texas. Siamo in mezzo a un incontro. Randy è stato messo al tappeto proprio dal suo avversario The Snake, quello del cobra alle nozze. Lei è fuori dal ring, Elizabeth osserva la scena, è sconvolta. A un certo punto The Snake la obbliga a inginocchiarsi a suo cospetto per pregarlo di risparmiare il suo partner. Ma lui non basta, non è soddisfatto da questa supplica, non l'ha umiliata abbastanza. La scena che segue è davvero di quelle forti. The Snake la afferra con forza per i capelli, la trascina per il ring, e lei, la First Lady del wrestling, e viene umiliata così pubblicamente. Il pubblico è sconvolto. The Snake la strattona con violenza e la schiaffeggia. Quale razza di uomo colpisce una donna? Ah, orribile. Jake the Snake Roberts, sarai chiamato a spiegare le tue azioni, e ricorda, sarai destinato a sfidare Macho Man Randy Savage, uno contro uno, molto, molto presto. Very, very soon. Insomma, è evidente che si stanno gettando le basi per un nuovo incontro, anzi per una nuova rivalità leggendaria, perché il wrestling è fatto così, è tutto un teaser per la cosa successiva, e l'incontro bisognerà farlo tra Macho Man e The Snake. In questa sceneggiata lei è la protagonista, perché è eclatante, perché è esagerata, lei è la sceneggiata pure, bisogna rendere sempre più feroce la rivalità tra questi due, scatenare i loro fan. È una scena che rimarrà famosa ma anche simbolica, perché anche nella vita vera sta succedendo una stessa cosa. Tutta la debolezza di Elizabeth, la sua vulnerabilità sono tornate a galla, insomma il marito non le basta più per essere felice, e non le basta più neanche quella vita. Elizabeth è in una profonda crisi personale, è infelice della sua vita privata, che peraltro si è sempre intersecata con la vita pubblica, e lei non ha mai fatto molto per evitare questa sovrapposizione. E intanto c'è un altro capitolo di questa sceneggiata, perché un terribile scandalo si abbatte su di lei. Eh sì, perché un bel giorno Ric Flair, che è un wrestler con la fama di bad boy, di cattivo, che forse vuole destabilizzare Macho Man, decide di mostrare al pubblico foto scottanti, foto erotiche che ritraggono lui e Elizabeth insieme in atteggiamenti compromettenti. E queste foto sarebbero la prova inconfutabile che lui e Elizabeth abbiano avuto una bollente relazione alle spalle del povero Randy. E in realtà le foto sono un fotomontaggio, ma in tutto questo è solo un dettaglio. Ormai è tardi, lei è stata giudicata dal pubblico, il verdetto è colpevole, lei la traditrice, lei che nasconde una doppia vita, e lei la perversa che si scatena a letto, altro che first lady del wrestling. Sono arrabbiata perché le televisioni nazionali e i giornali della World Wrestling Federation, che hanno sempre trattato giustamente me e Randy quando le cose andavano male, hanno dato credibilità ad un uomo come Ric Flair. Hanno pubblicato delle foto e un articolo che, come ha già detto Randy, è completamente falso. E vedete poi noi italiani in certe trasmissioni da dove abbiamo imparato. I protagonisti di questo circo portano le loro vicende anche fuori dal ring, continuano a recitare il ruolo, rimangono dentro al personaggio. Sono quelle che loro chiamano storyline, delle sceneggiature, delle sceneggiate, come delle soap opera. Dopo la storia dei fotomontaggi, il matrimonio che aveva unito le due superstar finisce, anche perché era realmente in crisi da qualche tempo. Randy e Elizabeth si lasciano sia nella vita reale che sul ring. Eh sì, perché per un certo periodo lei prova a collaborare sul ring con Macho Man, però non è facile. Anche una donna mite posata, come in fondo è lei, non riesce a far finta che non sia successo nulla. Insomma, alla fine lascia il suo ruolo di manager e lascia il wrestling. E anni dopo cercherà di riprendere questa strada con qualche apparizione, ma non sarà più la stessa cosa, perché è il wrestling che non è più lo stesso, e perché è lei che non è più la stessa. La donna candida, sorridente, che sapeva rapirti con uno sguardo, e ormai è alle prese con il suo lato più cupo e solitario. Ascoltiamo la dichiarazione di Hulk Hogan. Davvero non so cosa rendesse Elizabeth felice. Molte persone pensano che lavorare nel mondo degli affari ti renda felice, ma io non so se questo sia vero. Non so se lei avesse davvero trovato il suo posto, perché era sempre il passeggero quando era in giro e mai il guidatore. She was never the driver, non era il guidatore. È un colpo di saggezza insperato da parte di Hulk Hogan. Comunque il suo ritorno nel wrestling è breve, illusorio, non è fortunato come il suo passato glorioso, però intanto le regala un altro incontro sentimentale, un altro momento chiave della sua vita, perché nel 96, con il suo approdo alla VCV, che è un'altra federazione di wrestling, lei conosce un atleta, si chiama Lex Luger, e nel 99 diventa la sua manager, stesso copione, manager e donna, lo assiste, lo accompagna nei match, sembra ripetersi tutto. Lex ricorda molto il suo vecchio uomo Randy, l'ama la follia, però è possessivo, la prevarica, e non è un tipo dalla vita irreprensibile, però a lei non importa, perché comunque anche se lui è un violento sul ring e fuori, lei evidentemente ha bisogno di uomini così, e spesso ci si innamora per tutta la vita dello stesso uomo o della stessa donna, anche se con sembianze diverse. E insomma, cominciano ad arrivare i segni, quelli veri, delle botte che lui le dà quando è ubriaco, eppure lei ci sta, non si sente più sola, è ricascata nella stessa trappola. Dal 2000 il wrestling non è più la sua professione, perché Elizabeth si guadagna da vivere diversamente, lavora nella palestra di Lex in Georgia, è un lavoro onesto, tranquillo, però qualcosa non quadra, perché è tutto troppo normale per chi è abituato a vivere come una star. Per chi come lei ha scoperto il fragore della vita, lei non ama questi momenti di silenzio, e da questo momento in avanti la nostra protagonista cercherà di fare tutto quello che le è possibile per vincere questa sua inquietudine, e lo fa cercando di dare un ultimo disperato estremo colpo d'ala, cioè cerca l'eccesso, e lo trova come accadeva nei vecchi tempi, i tempi della gloria. Però prima era droga e alcol per festeggiare, adesso è vodka, crack, cocaina, solo per farle compagnia e magari per farle dimenticare le percosse del suo Lex. Il 19 aprile del 2003 i due si ritrovano per l'ennesima volta a discutere animatamente nel garage della loro casa. Litigano e al punto che dopo un po' arriva la polizia chiamata dai vicini. Quando arrivano sul posto gli agenti, lei ha i segni evidenti di uno scontro fisico duro, perché è stato fatto con un wrestler. Gli occhi tumefati, le labbra spaccate, ha un ematoma in testa e non può coprirlo come molte donne fanno, cioè sono caduta dalle scale. È troppo evidente, l'ex deve rispondere delle sue azioni, subisce un'incriminazione, costretta a pagare una multa di $2,500, però questo è ancora niente rispetto alla tragedia che accadrà pochi giorni dopo, perché torniamo all'inizio della nostra storia, torniamo a quell'uomo che parla al telefono sconvolto, inebetito, con la voce rotta, con davanti una donna incosciente stesa a terra. Oh my God. Il corpo è quello di Elizabeth, è priva di sensi, ha smesso di respirare, lui non sa come fare, telefona, chiede aiuto, però è troppo strafatto probabilmente, non è solo agitato, insomma non riesce a aiutarla. E non sappiamo come i due siano arrivati a questo punto, sappiamo che quando viene portata d'urgenza all'ospedale lei è già morta e le indagini che seguono non daranno mai risposte sicure. Non sappiamo se sia stata uccisa da un mix di sostanze tossiche, alcol, droga, oppure se si sia uccisa intenzionalmente, forse spinta dal peso di una vita che non era più quella che lei aveva sognato, o forse sia stata addirittura assassinata da un compagno manesco che la amava troppo, come si dice, cioè in realtà che non sapeva gestire la sua follia, il suo amore. Forse è morta per tutte e tre le cause che ho appena detto. Luger non sarà più lo stesso, e non solo per le incriminazioni per possesso di droga, ma anche perché non supererà mai il trauma di aver assistito e agevolato o addirittura provocato la morte della donna che amava. Quello che resta è una vita spezzata prematuramente dalla propria solitudine, prima ancora che da quel mix letale di sostanze e di stati d'animo terribili. È una donna che non ha saputo reggere l'urto dell'ipocrisia, di quella finzione che alla fine le ha fatto perdere il contatto con la realtà, che ha creato l'illusione che la vita potesse essere sempre solo uno spettacolare gioco, uno show che deve rinnovarsi. A volte i colpi d'ala si pagano cari, soprattutto se si basano su una finzione che riproduce la parte rischiosa e oscura della vita. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite sulle quali puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sui nostri, sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma se volete lo sapete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno, con la collaborazione degli studenti del Master in Radiofonia della 24 Ore Business School, Alessia Di Giovanni, Simone Mangialenti, Alessandro Re, Andrea Spenuso.